Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per presentare il film Ognuno ha diritto ad amare, al cinema da giovedì 14 febbraio 2019 per la regia di Adina Pintilie. Dario, ben trovato. Ben trovato a te, ben trovati a tutti. Raccontiamolo brevemente. Touch Me Not è il titolo originale del film, che ha avuto una piccola differenza in Italia, ovvero abbiamo deciso come distribuzione di cercare di dare uno sguardo in più sul film con un titolo leggermente diverso. Usciremo il giorno di San Valentino, che è il 14 di febbraio ovviamente, e il titolo è Ognuno ha diritto ad amare. Questo perché? Perché ovviamente la storia che ci racconta Adina Pintilie è una storia del tutto particolare, una storia di persone che hanno disabilità e con le loro disabilità hanno ovviamente delle difficoltà, diciamo così. È sempre difficile parlare di questi termini con un linguaggio che possa cercare di non offendere nessuno, per cui mi scuso anticipatamente se posso dire qualche spondone, però la sostanza è che la regista è andata nel cuore di questo tema e soprattutto del parlare di sessualità anche per chi appunto può avere difficoltà nella pratica quotidiana. Di questa regista cosa sappiamo? Innanzitutto la cosa più importante è che ha vinto l'Orso d'Oro, e ha vinto l'Orso d'Oro con il suo primo film, per cui è una regista molto giovane, è nata nel 1980, è una regista rumena, appunto Ognuno ha il diritto ad amare, Touch Me Not, è la sua opera prima, si è cimentata insomma con altre forme di cinematografia, qualche documentario, ma soprattutto cortometraggi. Già dalle prime opere comunque la critica ha riconosciuto un certo stile, un suo tocco, è un'autrice sicuramente. Io poi con Berlino credo che abbia già da subito espresso la sua bravura, e appunto ripeto, si è aggiudicata l'Orso d'Oro addirittura all'opera prima. Direi che il talento è una cosa che non le manca. Una produzione internazionale che coinvolge almeno 5 paesi. Sì, perché un film che racconta più storie, un film che ha avuto una lunga gestazione, un film che affronta più vicende, e la regista è partita sicuramente anche dal suo paese natale, la Romania, per poi costruire una storia facendo leva sugli aiuti di più paesi, ecco. Le lingue che appunto sono anche parlate nel film sono molteplici, e abbiamo deciso in questa occasione come distribuzione di conservare l'originale, per cui il film è in distribuzione in versione originale con i sottotitoli. E quali sono i pregi principali di questa pellicola secondo te? È una pellicola che io sconsiglierei, è una pellicola che io sconsiglio a chi pensa di andare a vedere una bella storia d'amore, nel senso di questo si tratta, ma è un film del tutto particolare. Per la storia d'amore io rimanderei ancora nelle sale al Gioco delle Coppie, ecco. È un film un po' più piacevole, una commedia di Assayas, un po' più piacevole, sempre i Wonder Pictures sono a caso, però in questo caso è un film del tutto particolare, con immagini esplicite, immagini molto forti, è un film che permette di crescere, non è un film per tutti, è un film che se gli spettatori che ci ascoltano sono degli spettatori che adorano essere provocati e che adorano i film controversi, adorano i film d'autore, i film splendidi, e allora è il film per loro. In quante sale? Saremo in una ventina di sale. Abbiamo la fortuna di avere una delle migliori sale di Roma, che è il Giulio Cesare. Abbiamo anche la fortuna di essere in una sala d'oro a Milano, che è il Cinema Beltrade, che è una sala che voglio elogiare pubblicamente perché è in grado di avere sempre un'attenzione unica nei confronti degli spettatori e anche a portare dei risultati clamorosi per essere una buona sala. Saremo a Firenze, saremo a Bologna, ma saremo anche a sud, a Reggio Calabria la prossima settimana, ma anche Bari, Lecce, Pescara, ovviamente Napoli e Perugia, poi saremo in Italia, arriveremo anche fino a Bergamo, Mantova, Varese, Treviso e Torino. Allora ricordiamo il film Ognuno ha diritto ad amare, Touch Me Not, il titolo originale di Adina Pantilie per I Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Dario Bonazzelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Viva il lupo e grazie a te Federico e grazie a tutti. Con Carol Di Tommaso per parlare del suo film Mamma più mamma, al cinema dal 14 febbraio 2019. Carol, ben trovata. Salve. Raccontiamo brevemente la trama di questo lavoro? Sì, Mamma più mamma è il mio primo lungometraggio, è la storia del desiderio di maternità di due ragazze che decidono di avere un bambino insieme affrontando varie peripezie legate appunto ai propri stati d'animo e alle difficoltà economiche e anche sociali che incontrano. E diciamo anche ispirato alla mia storia vera, perché ho fatto un figlio con la mia compagna e allora ho deciso di partire da qui e di raccontare quello che in fondo conoscevo molto bene, e da qui viene fuori Mamma più mamma. Su cosa hai voluto centrare l'attenzione? Io ho voluto centrare l'attenzione su un aspetto che di solito si affronta diversamente, ovvero che anche le persone dello stesso sesso possono essere felici e quindi non farne un dramma, ma uscirne in modo totalmente positivo, quindi affrontare in modo molto leggero una tematica così importante e tanto chiacchierata e a volte tanto discussa come quella della fecondazione assistita. Ecco, dal punto di vista della legge, come siamo in Italia oggi? Ma dal punto di vista della legge non bene, perché la legge delle unioni civili voluta dalla Cirinnà è passata, ma dal punto di vista dell'adozione, cioè diciamo che i bambini che nascono da coppie di due persone dello stesso sesso non vengono facilmente riconosciuti, quindi una legge vera e propria non c'è e soprattutto in Italia non si può fare, quindi chiunque voglia avere un bambino e coronare il suo sogno deve andare fuori, nel nostro caso sono andato in Spagna, però diciamo in Italia non si può fare, perché la fecondazione assistita in Italia si può fare soltanto se viene riscontrata infertilità e se si è sposati. Carol, a livello sociale invece come è stata la tua esperienza? Ma la mia esperienza reale è molto positiva, diciamo che ed è quello che ho voluto portare anche nel film, perché nonostante costantemente quotidianamente ci siamo, mi sono imbattuta in pensieri diversi, ho riscontrato comunque delle persone pronte, molto distaccate, pronte ad accogliere la diversità, con molta gioia anche, e molto lontane invece da quello che costantemente ci sentiamo dire e ribadire dei vari giornali e telegiornali. Quindi quello che io ho visto è che c'è proprio uno scollamento tra le persone e quello che poi, come vengono raccontate. Chi vive una situazione analoga, che risposta ha dato vedendo il tuo lavoro? Ma la cosa più bella che mi è successa e che continua a succedere è che si sentono abbracciati dal film. Questa è una cosa che mi piace tantissimo. Qualcuno mi ha detto che il film è come una carezza che ti arriva in modo inaspettato, perché è un film diciamo molto dolce, dove appunto non ci sono stereotipi di nessun tipo, è semplicemente una storia che racconta di questo desiderio con molta delicatezza e quindi i riscontri sono molto positivi. Dal punto di vista distributivo ci racconti un po' le scelte? Sì, dal punto di vista distributivo ho avuto il piacere di collaborare con altri sguardi, che è una distribuzione nuova di Claudio Storani e di Marianna Capocci, loro diciamo che prendono film che difficilmente potrebbero avere una vita in sala e distribuiscono il film sulla lunghezza e non sulla brevità, nel senso che magari fanno prima delle uscite, si cerca di fare prima delle uscite nelle grandi città e poi arrivare in tutte le altre città di provincia creando degli eventi e quindi diciamo distribuendo il film in modo capillare e uscendo da quel tritacarne dell'uscita canonica, ecco. Perché se normalmente un film di basso budget, che non ha diciamo attori ancora diciamo totalmente conosciuti, di solito esce il giovedì, se la domenica non è incassato tanto viene tolto dalle sale. Invece con questo sistema si può ambire ad avere una visibilità più grande e sono molto felice. Proiezioni evento, immagino legate alla tua presenza in sala, come sarà al Nuovo Cinema Aquila martedì 12 febbraio. In questo senso ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sul calendario? Sì, si può visitare sia sui social network la pagina di Altri Sguardi, oppure sulla pagina Facebook di Mamma più Mamma o Instagram, diciamo che la maggior parte degli eventi vengono comunicati prima sui social, perché è un diciamo è un mezzo più immediato che abbiamo per arrivare alle persone. E per adesso saremo a Casa Calenda in Molise il 10, l'11 a Milano a Beltrade, il 12 a Roma, il 13 a Bologna, il 14 a Perugia, il 15 a Torino e il 16 si ritorna in Molise ancora. E così saremo dietro alla programmazione, non parteciperò solo io ma anche il cast con Linda Caridi e Maria Roveran e altre persone che hanno fatto parte del film. Allora ricordiamo l'uscita in sala del film Mamma più Mamma da giovedì 14 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento alla regista Carol Di Tommaso. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Ok, ciao, andate a vedere il film, è stato un piacere. Con Dado Martino, regista del film Carta, al cinema da giovedì 14 febbraio 2019. Dado, ben trovato. Buonasera a tutti. Per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la storia, la trama di questo film. Sì, allora, il film è intitolato Carta perché appunto è tratto da una storia vera, la storia del maestro Giuseppe Carta, che è un pittore, scultore, un artista, diciamo a tutto tondo, di Sassari, quindi sardo. Com'è nato tutto il progetto? Stavo girando un film in Toscana, Pietrasanta, prima che è uscito l'anno scorso, che quest'anno è anche al David Donatello, insomma, un concorso, si chiama 8 minuti. E mentre stavo girando questo film, in piazza c'erano delle sculture gigantesche, enormi, e c'era questo peperoncino grandissimo, quindi mi sono un po' informato che sono appassionato di arte contemporanea. E alla fine ho scoperto questo artista, pensavo fosse uno straniero, e invece era un italiano, diciamo. E quindi mi sono informato, Giuseppe Carta, l'ho voluto conoscere in tutti i modi, e da lì ho scoperto le sue opere, e mi sono praticamente letteralmente innamorato della sua arte. E alla fine ho deciso insomma di scoprire anche la sua vita e ci ho fatto il film. Cosa apprezzi maggiormente delle sue opere? Io amo tantissimo la sua pittura. La sua pittura lui è un iperrealista. Spinge nature morte sullo stile di Caravaggio, però molto, molto più realistico. E poi fa delle sculture che sono totalmente diverse, che sono sullo stile pop art. Quindi è proprio diverso lo stile dalla scultura alla pittura, anche se comunque non sono un critico d'arte, non saprei definirlo. Però diciamo, adoro tantissimo proprio la perfezione dei suoi quadri. Una volta presa questa decisione, cosa e come ti sei messo all'opera? Io mi sono chiesto, dietro a un'opera c'è sempre un artista, ma dietro l'artista c'è sempre un uomo. E io ho voluto raccontare con questo film l'uomo Carta. Quindi mi sono fatto tantissime domande, cioè come è arrivato ad essere un artista? E ho fatto una specie di intervista come mi state facendo voi adesso, no? Ho chiesto a lui, ho chiesto ma che scuola ha fatto, insomma alla fine siamo arrivati veramente alla sua infanzia. E mi ha raccontato tante cose, che lui da bambino praticamente faceva il contadino in Sardegna, già a 6 anni portava l'asino, portava le pecore, insomma, era proprio un contadino ed era fiero di fare questa cosa qua, però aveva questa ambizione di diventare un pittore, diventare uno scultore fin da bambino. E da lì, insomma, sono venuti fuori tantissimi racconti, aneddoti, che ne ha tantissime da raccontare, Giuseppe. E poi mi ha raccontato anche le sue storie d'amore. Io, visto che faccio questo mio sesto film che faccio, e sono tutte storie d'amore, mi firma, e mi sono focalizzato sulla sua storia d'amore. E l'ho un po' romanzata e poi alla fine è venuto fuori il. E a tuo modo di vedere, in che rapporto sono l'amore e l'arte? Nella mia visione l'amore e l'arte sono la stessa cosa, perché comunque quando dipingi un quadro ci metti tutto l'amore che hai dentro, o l'amore o la rabbia, perché si dice che Van Gogh quando dipingeva con quelle sue pennellate aveva tantissima rabbia, quindi o l'amore o la rabbia sono comunque dei sentimenti da esternare, c'è chi le esterna magari in un altro modo e chi magari con l'espressione artistica. E secondo me l'amore che faccia parte dell'arte pittorica oppure musicale, non lo so, ma sono la stessa pasta, come spiegate, insomma, sono sentimenti legati. Lui come si è rapportato al film? Lui all'inizio non voleva assolutamente, perché non è una persona che ama apparire, e quindi mi diceva no, ma un film su di me, ma non sono neanche morto, e quindi gli ho detto vabbè, non è che bisogna morire per forza per far diventare famoso una persona oppure per fare un film su di lui. Detto, a me interessa tantissimo la sua storia e l'ho sempre chiamato maestro da quando l'ho conosciuto, e alla fine sono riuscito a convincerlo, gli ho portato questa sceneggiatura che era proprio inventata, perché alla fine l'ho un po' inventata, l'ho ricalcata un po' dalla sua vita vera, però l'ho romanzata. E mi ha detto va bene, allora se non si parla esplicitamente di me, va bene, insomma. E poi il 9 di febbraio abbiamo fatto un'anteprima nazionale a Genova, lui l'ha visto per la prima volta, si è commosso, quindi è stata una mia soddisfazione. In quante sale sarà? In 224 sale. Facciamo la prima a Sassari, il 14, e poi da lì andrà in giro in tutta Italia, insomma. È distribuito da Zucchero Bianco, che è una piccola distribuzione, quindi non saremo contemporaneamente in 220 sale, ma usciremo un po', abbiamo poche copie, diciamo, perché siamo una piccola produzione. Ci sarai anche tu in giro a presentarlo? Sì, io sarò in giro forse a Sassari, poi sarò il 17 a Pontedera, in provincia di Pisa, poi lo presentiamo ad Agrigento, perché il distributore è di Agrigento, e Luigi Augelli, quindi lo faremo anche là. Sono stato già a Genova e dovrò girare un po'. E allora ricordiamo il film Carta al cinema da giovedì 14 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Dado Martino. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Vi ringrazio tantissimo, a presto. Con Luca Pellegrini, regista del documentario Essere Divina, che sarà a DocuD, il concorso di cinema documentario a Pescara, al Museo Colonna, venerdì 15 febbraio 2019. Luca, ben trovato. Ben trovato a voi. Ti presenti questo lavoro? Sì, il documentario Essere Divina, che ha tutti gli effetti un film, che dura un'ora e un quarto, è praticamente il documentario sull'unica scuola per drag queen che esiste in Italia, che sta a Milano. Esistono svariati corsi per drag queen, ma sono tutti corsi, appunto, sono dei piccoli corsi che magari si esauriscono nell'ambito di un weekend o nell'ambito di una settimana, mentre invece questa è proprio una scuola regolare, cioè dura diversi mesi, ha uno spettacolo finale, si insegnano ai partecipanti a camminare, truccarsi e quindi a sperimentare che cosa significa indossare i panni di una drag queen. Questo è un progetto nato nel 2014, quindi ha avuto un lungo periodo di gestazione, ci aveva appassionato a me e alla mia collega e amica Maria Teresa Venditti, che è sceneggiatrice, e perché eravamo un po' curiosi di capire chi si potesse iscrivere a una scuola del genere, perché per noi era assolutamente strabiliante, no? E ci aspettavamo un mondo un po' strano, no? Da visitare, un mondo anche di gente non proprio integrata, se vogliamo dire così. E invece andando a questa scuola siamo rimasti enormemente sorpresi dal constatare che il corso era estremamente serio, tenuto da sei attori professionisti, noi ne abbiamo conosciuti quattro in realtà, ma sono sei che sono le Minas, che fanno lavori teatrali di tutto rispetto, c'è un attore, Gianluca Di Lauro, che ha lavorato anche nel cinema, insomma, quindi diciamo proprio attori professionisti che fanno le cose con molta serietà, e i partecipanti a questa scuola sono persone normalissime, professionisti, insegnanti, e ci sono tantissime donne. E questa cosa ovviamente è stata frutto di molte riflessioni, perché una donna deve indossare i panni di una super donna, di una drag queen, e il documentario ha dato delle risposte ovviamente a questo mondo totalmente sconosciuto, e più soprattutto in Italia, dove diciamo la realtà drag queen, per quanto conosciuta, versa in uno stato di confusione, proprio non si capisce mai la differenza tra drag queen, transessuali, travestiti, non si capisce. Le drag queen sono donne, sono uomini che si travestono da donne o donne che si travestono da iperdonne a fini di intrattenimento, quindi non fanno nulla per nascondere il fatto che sono uomini o sono donne travestite da iperdonne, quindi gli uomini continuano ad avere, non so, le gambe non depilate. Abbiamo avuto Concita Busta all'Euro Festival, una vittoria insomma, di cui hanno parlato tanto, che insomma si è presentata con la barba, e Fattezzi assolutamente da donna, ma aveva la barba. Perché lo scopo è divertire, ironizzare, diciamo essere estremamente spiritosi, intrattenere un pubblico, quindi non c'è niente a che vedere col discorso sessuale, perché è un intrattenimento, e in questo le drag queen incredibilmente sono le eredi, senza volerlo, di quel teatro che per secoli, per millenni oserei dire, ha messo in scena uomini che interpretavano ruoli femminili. Non parliamo del teatro shakespeariano, ma andando indietro nel tempo il teatro latino e greco era uguale, il teatro Noe Kabuki, quindi Cina e Giappone, era uguale, erano uomini che stavano in scena vestiti da donne. E poi questa tradizione gloriosa, di cui abbiamo ancora degli epigoni, abbiamo i legnanesi per esempio in Lombardia, si è completamente persa, perché c'è stata una ventata di perbenismo, no? Diciamo anche fortemente religioso, e anche il realismo, diciamo il naturalismo letterario, ovviamente ha richiesto che le donne fossero interpretate da donne. Però in realtà la tradizione degli uomini vestiti da donne in scena è antica, e le drag queen che fanno spettacoli così dal popolo concepiti come se fossero spettacoli un po' di serie B e C, e invece fanno a volte delle cose che possono veramente essere ascritti a una tradizione molto alta. Il documentario Essere Divina parla di questo, cioè perché essere divina, perché è un essere divino, e è essere divini e divine. Abbiamo giocato un po' sul titolo, perché si può sperimentare cosa significa per un uomo stare sui tacchi e vestirsi da donna, e nello stesso tempo si può sperimentare questa parte giocosa di travestimento che un uomo non si permette mai, se non nel privato e se non a scapito, diciamo, di grossi sensi di colpa, perché per l'uomo travestirsi da donna è ancora un tabù fortissimo, e le donne anche hanno un altro tabù, perché le donne che sembrano molto libere possono vestirsi come vogliono, in realtà non è vero, perché una donna che sceglie abiti troppo femminili, troppo audaci, si attira alle critiche delle altre donne prima di tutto, e poi comunque viene giudicata, e se non si giudica prima lei, la giudicano gli altri, e quindi insomma non c'è libertà neanche su questo. Nel recinto, diciamo nel territorio, in questa specie di turis eburnea di questo documentario e di questa scuola, si può invece sperimentare questa roba qui, ecco. C'è il detto di come è nato il documentario, l'idea del documentario. Invece la scuola che origine ha? Credo che esista dal 2007, io adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma insomma esiste da diverso tempo. Ovviamente si è sistemata nel tempo. L'idea è stata di un regista, attore, che adesso non c'è più, che è Fabio Chiesa, se non sbaglio, del cognome sono sicuro, del nome di battesimo non tanto, ma lui è stato un promotore al Teatro Ringhiera di Milano di questi spettacoli per drag queen, che inizialmente non erano conosciuti neanche dagli attori che li facevano. Poi è nata l'idea di estendere questa cosa, che loro trovavano estremamente divertente, a un gruppo di persone che fossero curiose come loro di accedere a questo mondo, e loro hanno così preso l'abitudine tutti gli anni di fare questo corso barra laboratorio, che appunto si tiene tutti gli anni al Teatro Ringhiera, al quartiere Cratosoglio di Milano, quindi un po' in periferia. Le Ninas, oltre a fare questa attività, questo gruppo di drag queen, oltre oltre a fare l'attività appunto di insegnanti in questa scuola, sono tra qui appunto spettacoli ufficiali e hanno fatto tantissime rivisitazioni di testi della tradizione ufficiale, quindi per esempio recentemente hanno rimesso in scena un Queen Lear, quindi il King Lear di Shakespeare rivisto in chiave drag, molto famoso è il Giardino delle Ciliegie, che è tratto ovviamente dall'omonima pièce di Chekhov, che è stato tra l'altro diretto da Francesco Micheli, che è un bravissimo regista di teatro e di opera e che tra l'altro è stato il primo direttore artistico della scuola e non solo, è anche la persona che un po' ha dato l'idea di dare una sistemazione vera al discorso della scuola. E anche Francesco Micheli è appunto è uno che appartiene alla cultura ufficiale, quindi non è un regista off, è un regista ufficiale, quindi per dire che questo discorso degli spettacoli drag queen è stato completamente sdoganato. E noi nel documentario abbiamo anche avuto la fortuna di avere Platinette, quindi Mauro Coruzzi, che ha dato una visione veramente notevole al discorso delle drag queen, perché lui non fa parte della scuola e ha quindi nei confronti di quello che lui stesso è, perché lui stesso è una drag queen, ha uno sguardo assolutamente disincantato. Lui è in assoluto la drag queen più antica, più diciamo più longeva, usiamo questo termine, più rispettoso, più longeva dell'Italia, che l'Italia conosca, se non altro la più famosa, quella che insomma è assurda agli onori della gloria televisiva e mediatica, e quindi ha, diciamo, rispetto all'argomento, conoscenze che nessun altro ha. Quindi averla avuta nel documentario è stata proprio una fortuna, perché ha dato al documentario sicuramente una veste, un graffio che altrimenti forse avremmo avuto più difficoltà a tirare fuori. Ecco. Ci hai parlato delle opere teatrali rivisitate. È uno spettacolo canonico, tra virgolette, drag queen. Come si compone? Per chi ci ascolta, facciamo capire. Ma dunque, la drag queen di solito è famosa, insomma, in Italia è arrivato Priscilla, la regina del deserto, no? Tratto dall'omonimo film, è un musical, è fatto tutto da drag queen. Le drag queen cantano, ballano e si esibiscono. Diciamo che sono più famose nel non usare la loro voce, nel doppiare, diciamo, musiche di personaggi tipo Mina, tipo La Carrà, tipo Gloria Gaynor, le grandi dive. Ecco, tutte quelle donne dello spettacolo che si sono, diciamo, affermate per non solo la loro voce, ma anche per la personalità artistica, perché sono proprio molto evidenti come persone, come personalità artistiche, queste qui sono veramente saccheggiate dalle drag queen, che quindi fanno il lip sync, cioè fanno il sincrono con le labbra, non solo loro che cantano, mettono il nastro, lo fanno sentire e loro si esibiscono facendo appunto il lip sync. E questo ovviamente è condito da abiti pazzeschi, la drag queen deve stupire, di conseguenza i tacchi sono alti, sono tacchi tacco 12 classico, hanno abbigliamenti estremamente colorati, molto lavorati, parrucche altissime, sono, insomma, curano tantissimo questa parte del loro aspetto, perché quando entrano in scena sono enormi, soprattutto gli uomini, perché gli uomini ovviamente raggiungono altezze che le donne difficilmente possono raggiungere. Un uomo è di media più alto di una donna, può raggiungere altezze maggiori, per cui con dei tacchi e con un abbigliamento particolarmente vistoso, quando entra in scena ha un allure, ha un carisma che nessuna donna riesce ad avere, ma proprio perché sono proprio dimensioni che l'occhio umano non è abituato a cogliere. Quindi queste drag queen solitamente fanno spettacoli di questo genere. Quando sono spettacoli più evoluti di intrattenimento, c'è una scaletta, ci sono delle battute già previste, ma solitamente le drag dialogano con il pubblico, ecco, e quindi sono improvvisano sul momento, hanno un canovaccio ma improvvisano, e hanno di solito dei nomi molto divertenti. Per esempio qui tra Roma e Milano abbiamo una drag che si chiama Lavanda Gastrica, Ecco, oppure per esempio la stessa Platinette ha un nome divertente, le nostre drag queen, le Minas, c'è chi si chiama Didi La Crush, insomma i nomi delle drag queen sono sempre divertentissimi. Questo anche perché, insomma, lo ribadisco nuovamente, il fine non è vestirsi da donna to cure, il fine è proprio intrattenere con abiti femminili e anche far riscoprire al pubblico una forma di trasgressione interna che il pubblico magari difficilmente si permette, per l'appunto, no? Cioè quando si entra in questa dimensione dove tu vedi un uomo vestito da donna, superato l'iniziale così senso di distanza, con la risata il personaggio diventa simpatico e quindi entra a far parte anche della tua dimensione, tu una seconda volta non ti stupirai più. Cioè, Priscilla, regina del deserto è un musical, ormai lo esportano dappertutto, sarà credo al Brancaccio per esempio a Roma a marzo per la seconda volta, è uno spettacolo di drag queen, quindi già questo la dice lunga su come il tema in sé non abbia niente della pruderie classica, non sia un qualcosa di scomodo, di strano, di trasgressivo. Non è veramente trasgressivo perché ormai diciamo che è diventato un argomento abbastanza ordinario, ecco. Per saperne di più in rete ho visto che c'è una pagina Facebook. Sì, c'è una pagina Facebook che credo sia www.onairessredivina.it, dove ci sono un po' di informazioni. C'è anche un sito su Essere Divina che viene, se uno googla il titolo del film, ma è un sito un pochino vecchio che non abbiamo più aggiornato perché poi gli eventi ci hanno sopravanzato. E poi ovviamente c'è un trailer, se voleste avere curiosità, a parte il trailer si trova facilmente su YouTube, se googlate Essere Divina c'è una versione italiana e una versione internazionale, così si vede chiaramente lo spirito che ha animato il film, quindi insomma c'è tutto quello che potete sapere sul film, se volete andarlo a vedere. Poi ci sono le date, c'è pure la pagina Facebook, che forse è la cosa più semplice, sì, la pagina Facebook è di Essere Divina, che tra l'altro riporta le date in cui il documentario viene di volta in volta proiettato, e di solito siamo almeno un paio di volte al mese, siamo in una città diversa, quindi insomma stiamo girando, siamo in tournée. Ricordiamo il documentario Essere Divina a DocuD di Pescara al Museo Colonna venerdì 15 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Pellegrini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Crevi il lupo, viva il lupo, come dicono gli animalisti, e un abbraccio a voi e grazie per avermi contattato. Con Mario Sessi, uno dei curatori di Cinema al Maxi, dal 26 gennaio al 14 aprile 2019. Mario, ben trovato. Grazie anche a voi, come al solito non siete puntuali, con la vostra attenzione non vi sfugge niente. Allora, raccontaci un po' questi mesi. Dunque, innanzitutto bisogna dire che si tratta ormai del sesto anno di Cinema al Maxi, che si è diventato uno dei programmi più attraenti di cinema, soprattutto l'unico che si trasforma con queste ambizioni e con questa versatilità all'interno di un museo. All'interno c'è quello che potrei chiamare una spina dorsale, che è il festival che è nato l'altro anno, Extradoc, che raccoglie la selezione di 5 film documentari italiani editi, cioè passati in altri festival, nelle sale, e 5 inediti. C'è una platea competente di una cinquantina di persone, tra utenti delle biblioteche, giovani appassionati, addirittura quest'anno dei liceali, che insieme alla giuria ufficiale presieduta da Giovanna Melandri sceglieranno alcuni titoli che poi gireranno nelle biblioteche di Roma. L'altro anno questo esperimento abbiamo fatto una volta, credo di poter dire un risultato anche, diciamo, perché poi come succede, no? Tu lo sai meglio quanto me, quando uno poi si appassiona al cinema il desiderio di farlo vedere più presto possibile, poi hanno scelto 2, 3, 4, 5 titoli che sono passati anche in decine di corsi, e quindi l'idea che attraverso un festival si possano fare una piccola distribuzione in città è forse la cosa più giusta, più efficace, più vera. Oltre a questo, naturalmente ci sono delle rassegne che seguono, così come abbiamo iniziato a fare da qualche anno, le mostre del Maxi, quindi c'è una sulla strada, ce n'è una sulla fotografia che segue la mostra su Belle, che è molto bella, che sta al Maxi, con film come Let's Get the Boss,